divertito, i giochi, la musica e le belle ragazze. Davvero pensavi che mi sarei accontentato? Ho grandi ali che si devono spiegare. Ho imparato quel che serve, lavoro finito, superato l'esame, ora io parto per un nuovo provino. Vedremo e nuovamente ti stupirò. Credevi che fossi delicato e fragile. Io sono un campione, nessuna gara mi fermerà. Seguo, nulla mi fermerà. Ora io proseguo.